Trasmetti anche tu con Spreaker.com. Eccoci qua, siamo tornati in studio qui in Mozilla Bros. Ciao a tutti, questo pomeriggio di Cosenza con almeno 32 gradi, molto caldo, una bellissima giornata. Qui in studio ci sono come sempre il vostro Natale di ritorno da Mediolanum e special guest Alessia. Mentre attendiamo il solito Andrea Blues, che con il suo blues allucinante arriverà molto tardi, oggi facciamo una trasmissione un po'... Di solito siamo tipo 5-6, sì, adesso siamo tipo 2-3, quindi mi sento abbastanza solo. Qui in studio c'è Alessia che ci aiuterà a parlare dell'argomento del giorno. Praticamente faremo un'introduzione sull'avvenimento del mese, che è l'ACMeeting all'Aquila. Ah! L'ACME, ti ricordi? Sì, quello sì, di cui Mario ricordo. Parlava spesso, sì. No? Sì, parlava sempre. Perché oggi ci sono dei seminari all'LSA Salto, all'Università della Calabria. Ci sono dei seminari che si chiamano Warm Up per l'ACMeeting, dove sono presenti il nostro Ono Sendai, il nostro Garf, che contatteremo dopo perché ci aggiorneranno su quello che succede lì. E poi parleremo appunto di ACMeeting e parleremo di altri temi interessanti, tipo... Tu che sei un'esperta di social DRM, ci puoi spiegare magari che cos'è in questo mondo dei Kindle, degli lettori book? È un sistema che viene... Vabbè, non te l'ho chiesto adesso, ne parliamo dopo. Ah, ok. Vedi che sei pronta, sei già carica. Senti, non so se l'hai notata, quella era Night Train, la nostra sigla, Night Train di James Brown. Sì. È presente ovviamente in Ritorno al Futuro, il nostro filmone di riferimento, oltre a Blues Brothers. E la canzone successiva era questa. Se parte. Mr. Chuck Berry, Johnny B. Good. Go! Eh? Che ritorno. Questo è un classico ritorno dei Mozilla Bros, che tornano con George Thorogood con... Tu lo sai il titolo di questa canzone? No. Back to the Bone, famosissima, famosissima. Scambiato spesso per gli ZZ Top, ma no, lui è George Thorogood. Famosissima canzone. Bene, abbiamo fatto una breve introduzione alla Back to the Future, grande film. L'ho rivisto l'altra volta per la centesima volta. Perché come sai, nella scena, quando lui torna nel 1955, ci sono quelli che suonano. Sì. Quella canzone che suona nel Night Train di James Brown. A un certo punto, quella... A un certo punto arriva Martin McFly, che suona la chitarra, e la canzone è proprio Johnny B. Goode, famosissima, che tu apprezzi. Sì, tantissimo, di al bar della Dovresti avvicinarti al microfono. Ah. Senti, devi un po' fare... La tua presenza è fondamentale, perché Angle, il nostro Andrea Blues... È in ritardo. E il nostro Lorenzo Blues ha fatto il classico PD Gaggio. Ecco. Famosissimo PD Gaggio. Sì. E quindi ci devi un po' aiutare a mandare avanti la trasmissione, perché con la loro assenza blues dobbiamo parlare di cose nerd, anche perché i nostri nerd sono lì all'assalto a parlare di, a fare questi seminari sull'Hack Meeting. Tra l'altro, uno Sendai parlerà di anonimato con Thor, e Garuf parlerà di piatti vegani e cose strane, bio, green, gay. Chi meglio di me può sostituire? Chi meglio di te? Senti, c'è l'unica cosa che non è in crisi, siccome siamo in crisi, tutti in crisi, crisi, è il mercato tecnologico. Sì. E una cosa che sta andando molto sono gli ebook. Sì. A molte persone piace leggere, no? Però in effetti portarsi 150 libri appresso magari non è comodo. Ecco che viene in aiuto la tecnologia. Quindi... E ci sono i lettori, i classici lettori ebook. Noi abbiamo sollevato più volte delle delle perplessità sul Kindle di Amazon, perché conteneva un sistema che si chiama DRM, di restrizione della libertà. Come sai, noi facciamo campagne contro il DRM ogni anno il 4 maggio con la Free Software Foundation. Però tu, mi hanno detto che tu sei esperto in un altro sistema che si chiama Social DRM. Ce lo puoi spiegare? E in che cosa può essere diverso dal DRM, che sembra una catena, sembra una costrizione? Sì, Social DRM è un sistema, è un sistema che consente la trasmissione degli ebook da un dispositivo ad un altro in maniera, insomma, più libera rispetto al DRM. Basta dare i propri dati, nome e cognome, e avviene la trasmissione. In questo modo c'è meno sicurezza, però si confida nel fatto che, dando il proprio nome e cognome, le persone siano meno invogliate a compiere atti illegali. È capito? Ah, perché si tratta di atti illegali? Esatto. Lo puoi dire di nuovo? Illegali? Illegali. Non ci piace questa, questa parola. Tra l'altro ho pensato di cambiarti lo sfondo, sai? Cioè? Non so che ti seduce più questo. Eh sì, dai, estate, siamo tutti più allegri, siamo tutti più frizzanti. Questa canzone è frizzante, anche se non è blues. Lui è Perez Prado e questa è Patricia. Sì, in effetti è uno sfondo, dovresti continuare a parlare. Ah. Quindi, perché no, noi passiamo blues o rock and roll. Patrizia è frizzante. Tra l'altro questa canzone è presente nella Dolce Vita di Fellini. Non so se è presente. Sì. Ok. Vabbè, dai, ce la sentiamo, ce la sentiamo. Siamo ritornati qui in studio. Per chi si fosse collegato per sbaglio sui 105.7 FM oppure sul nostro sito mozillabros.com, dobbiamo ricordare i nostri contatti. Innanzitutto, diciamo che facciamo. Siamo una trasmissione radiofonica che parla sostanzialmente di blues, rock and roll, soul, funky a volte, ma non il free jazz funky inglese. E parliamo di hiking in generale, senza essere troppo presi sul serio. Siamo ritornati qui. Era interessante questo argomento del social DRM, ma ancora non mi hai convinto. Scusami, l'idea è quella: se io mi compro un libro cartaceo, no? Sì. Voglio prestarlo a chi voglio. Me lo leggo e lo voglio prestare a tutti. Io l'ebook lo posso prestare a chi voglio? Con il social DRM, sì. Perché è possibile la trasmissione del file da un dispositivo all'altro. Se hai il DRM, invece, ti rimane su quel dispositivo. Fine. Quindi. Allora, diciamo che il DRM è brutto e cattivo. Esatto. La pirateria per noi non è brutta e cattiva, ma il social DRM mi sembra un buon intermezzo. Questo sistema così chiuso ha portato al fallimento del mercato degli ebook nel 2000, cioè si parla proprio di falsa partenza del mercato. È colpa delle costrizioni, colpa di questo sistema chiuso. Tutte queste restrizioni. Bene, sentite bene voi, cari amici. Infatti in Italia adesso tutte le case editrici, la maggior parte utilizzano questo sistema di social DRM proprio per questo motivo. Ma si vede che stai a Roma, perché l'accento non è proprio come il mio, non so, non hai la stessa cadenza. Oppure quello di Angolo, quando parla così. Beh, interessante. Senti, c'è qualche industria, qualche compagnia che usa social DRM che tu sappia? No, un sacco di case editrici usano il social DRM. Sì, le più importanti in Italia. Quindi sarebbe una specie di impronta digitale, senza fare restrizione di sorta sul libero scambio di file. Sì. Ed è questa la cosa importante, perché noi siamo per il libero scambio di file e la libera diffusione. Loro confidano proprio nel fatto che attraverso la trasmissione di questi file, la trasmissione più facile, questo porta una riduzione del fenomeno. Lo dovete capire, che se mettete il gioco, mettete le catene al povero utente che è considerato tondo, lui viene oppresso e non risponde correttamente. Invece, se l'utente è libero di fare quello che vuole, figuratevi se non vi viene incontro. Quindi infatti il mercato è in crescita, lenta ma crescita. Converge, perché anche gli hacker convergono. Mm-hmm. Va bene, questa è una lezione, sembra una lezione di vita per tutti questi grandi fregnoni che si pensano che la pirateria è il male assoluto. Ma l'hanno creata loro, perché mettono tutte queste restrizioni di sorta. Esatto. A mio avviso. Sì. Bene, sei stato illuminante, ti ringrazio per questa dissertation sugli ebook. Dov'è che possiamo approfondire questo argomento, che tu sappia? Sul social DRM, dici? Sul mondo degli ebook. Un sacco di siti. Secondo me la gente è ancora affezionata al pezzo di carta, perché non ha mai provato a leggere un libro su un Kindle, per esempio. Come si legge? Sono curioso. Sono dei dispositivi. No, dico, si legge bene? Sì, non si legge gli occhi, queste cose. Si legge benissimo, perché non è retroilluminato. E quindi tu lo puoi leggere ovunque, lo puoi leggere in spiaggia, al mare, sotto il sole, non ti dà fastidio. Quindi lasciate tutte queste minchiate, questi pad nuovi tecnologici che arrivano, in realtà no, gli faranno male agli occhi, e provate un reader qualsiasi, giusto per andare al passo con i tempi. L'acquisto è immediato. Potete anche. Aspetta, perché chi compra un lettore di questo tipo può anche caricare i file. Quindi questo non l'ho mai fatto. Non è necessariamente vincolato a questo o a quello. Sì, infatti. Va bene, mi sembra interessante questo argomento sul social DRM. Però passiamo avanti con la trasmissione. Ti ringrazio per questo intervento. Comunque sei ancora richiesto in questa trasmissione, visto che Angle non è ancora arrivato. Okay, praticamente andiamo avanti. Chiameremo successivamente il nostro Ono, il nostro Garf, che probabilmente stanno parlando in questo momento. E andiamo avanti con la nostra trasmissione. from the ocean far upstream. Nothing to his name but a code and a dream. Looking for the legendary inland sea where the water was deep and clean and free. But the town he found had suffered a blow. Fish were dying cause the water was low. Fat catfish named a Diamond Dolls plugged the stream with copyright laws. He said, my water's good and my water's free, so Ponderosa, you're gonna thank me. Then he bottled it up and he labeled it mine. They opened and poured, but they ran out of time. So Puff made a brand and he tanned his hide. Said, this is the mark of too much pride. Tied to a horse, set the tail on fire. Slapped her on the ass and the water went higher. Ponderosa Puff wouldn't take no dove. Water ought to be clean and free. So he fought the fight and he set things right with his open PSD. Ok, dopo questo breve intermezzo di OpenBSD, questa è una delle canzoni di OpenBSD che è un sistema operativo, per tua informazione, l'abbiamo passata parecchie volte. E andiamo all'argomento del giorno. L'argomento del giorno è l'hack meeting. L'hack meeting è un ritrovo di persone appassionate di hacking in generale, senza essere troppo troppo vincolati al computer. Proprio come persone curiose, persone che amano smontare delle cose per farle funzionare meglio. Questi hacker, tra l'altro vedo che ti stai chiamando Simona, la nostra sisters. Tu sei venuta qui a fare le veci di Simona, che salutiamo. Chissà ci sta sentendo, ma non ci sente più secondo me. Ma forse se mi chiama è perché io ho appuntamento con lei fra un minuto. Ok. Tra 10 chilometri e... Beh, dovrebbe sentirci, così capirebbe che al momento non puoi rispondere. Ti stavo parlando di Hack Meeting. Tra l'altro si terrà questo ritrovo annuale, scambia città ogni anno. E quest'anno è all'Aquila, l'Aquila che tu conosci bene. Perché ci sta Mario, un noto hacker, quel tuo amico smanettone hacker, cui piace molto smontare computer e fare dei robot. Sì, proprio guarda, più nerd di lui nessuno. Vabbè, intanto lo salutiamo perché è molto simpatico. E sicuramente se andate ad Hack Meeting lo troverete a smontare queste schede madri e a svitare valvole e a fare bagni in piscina. Ma secondo te perché uno dovrebbe andare all'Hack Meeting? Me lo chiedevo anche io perché... uno se lo come chiede mai uno andare andare innanzitutto perché c'erano i Mozilla Bros. Saremo al completo a questo Hack Meeting annuale all'asilo occupato dell'Aquila. Un altro motivo è perché per curiosità. Secondo me siamo in un periodo, in una fase storica in cui il soggetto soggetto da considerare è l'hacker, la persona curiosa, la persona che ama essere libero mentalmente, anche svincolato da tutti i paletti mentali e fisici che la società moderna gli impone. E allora qui troverete tanti hacker che non sono per forza cybercriminali russi che vendono carte di credito rubate, potrebbero esserci, ma sono persone curiose, persone sostanzialmente libere. Penso sia arrivato Angle. Ok, nel frattempo accogliamo Angle, vi lascio con questa super psycho dei Sonics. Ladies and gentlemen, direttamente dai microfoni di Radio Ciroma, il blues, Andrea Blues. Ciao a tutti, buonasera. Con notevole ritardo, come abbiamo abituato i nostri ascoltatori, caro Natale, devi sapere che quando non ci sei stato, ma anche quando c'eri, abbiamo fatto sempre un po' di ritardo, e questa è la nostra caratteristica, ma recuperiamo con la nostra grande musica e con le nostre notiziucce nerd che non guastano. Che abbiamo già dato. Abbiamo già dato, meno male. Beh, direi che ti ho accolto abbastanza bene. Alla grande. Caro Angus, grande. Siamo Lorenzo Blues ci ha abbandonato oggi, quindi siamo io e te a portare avanti il blues. In mission. A proposito di mission, ho visto che è una maglietta consona. Ti piace? È una bella maglietta. Questa è la maglietta del mercoledì. Perché il mercoledì noi tutti abbiamo l'appuntamento per missione per conto di Dio, in missione per conto di Dio, e quindi è giusto anche palesare un po'. Facciamo anche, cogliamo l'occasione per fare un po' di pubblicità occulta, caro Natale. Diciamo che da oggi a Cosenza si proietta una pietra miliare della cinematografia blues, ma non solo. Il film forse più acclamato, più famoso negli ultimi 30 anni. Ovviamente stiamo parlando del film che ci ha ispirato, che ha ispirato il nostro nome qui in trasmissione, Blues Brothers. E il primo film sarà trasmesso, sarà mandato in sala, nel cinema. Nel cinema Natale, qual era il cinema? Ricordo il cinema a Cosenza. Comunque in tutti i cinema d'Italia oggi c'è Blues Brothers, che non in tutti quelli d'Italia, però è un must, cioè è proprio un must. Tutti voi bluesmen, tutti voi amanti di questa musica, di questo stile, e non so, coloro che apprezzano comunque questo stile di vita pure, possono andare a vedere questo filmone in HD, oppure se proprio pensate che non sia strettamente necessario, potete in occasione di questo evento riscaricarlo con torrent da torrentz.eu. andate, scrivete Blues Brothers HD e vi scaricate il film in alta qualità, ve lo potete vedere a casa liberamente, perché voi siete liberi di fare quello che cavolo volete. Però sinceramente io approfitterei questa occasione per andare al cinema e vederselo in alta qualità. Del cinema. Il cinema è il cinema, non c'è niente da fare. Che se ne dica, lui. È cinema. Infatti guarda, queste grandi industrie cinematografiche, parlavamo prima con Alessia, che ringraziamo per essere intervenuta. Sì, ha fatto una lezione magistralis sui social DRM, una cosa che non conoscevo. Comunque, come parlavamo con lei, che tu costringi oppure fai delle restrizioni, alla fine non servono a niente. In realtà la persona capisce che una cosa nuova va vista al cinema, una cosa di alta qualità va comprata in quel modo, una cosa per tutto il resto c'è la condivisione e lo scambio dei file, che comunque non uccidono l'industria cinematografica o discografica, anzi alimentano questo mercato, perché più c'è condivisione, più c'è conoscenza, più c'è richiesta. Poi creando informazione si crea anche interesse, quindi molta gente non sa nemmeno qual è il film in auge, qual è il nuovo artista, qual è il nuovo manga, e quindi tutto ciò che gira in rete, tutto ciò che è scaricabile, si può conoscere in maniera molto più semplice. Bravo. Come Stevie Ray Vaughan. Decisamente, ma questo si conosce già un bel po'. Ovviamente. Beh, chi non lo conosce, chi ci ascolta ormai penso che conosca molto bene Stevie Ray Vaughan. Tra l'altro tu e i Petrona Blues ogni volta fate una discussione anche storica su questo grande chitarrista, uno dei più grandi. Abbiamo parlato anche di lui. Poi ovviamente quando sei tu in regia Stevie Ray Vaughan non manca mai. Lo uso come sfondo perché penso che l'abbiamo passato tutti. Senti, invece i nostri nerd, che chiameremo dopo il pezzo, sono all'assalto a fare questi seminari sull'Hack Meeting. Tra l'altro ti volevo chiedere se tu venivi all'Hack Meeting quest'anno, visto che il tuo compleanno è a ridosso dell'Hack Meeting. Beh, come lo vedi un compleanno all'Hack Meeting, vanga bestia, nerd, co? Io lo vedo molto bene, secondo me, yamo. Si può anche fare. poi... Senti, dovresti intrattenermi mentre io cambio la canzone, va bene? Intrattenere il nostro pubblico, bene. Natale sta trovando un pezzo adeguato. Quello che ascoltate è Steve Ray Vaughan. Breve introduzione su Steve Ray Vaughan. C'è ben poco da dire, perché ci sarebbe veramente tanto da dire. In questo spazio è difficile, ma Steve Ray Vaughan, meglio conosciuto con l'acronimo SRV, è uno dei chitarristi americani non neri, bianchi, più famoso, almeno quello fondamentale negli ultimi 40 anni. E allora, caro Angolo, siccome mi hai citato il bianco, io ti passo uno dei più grandi bluesman neri di tutti i tempi. Quale? Lui è Muddy Waters. I love the life I live. I live the life I love. Pronto? Mi sentite? Pronto? Non ti dico. Senza musica. Ci scusiamo per l'interruzione di Muddy Waters, ma abbiamo in collegamento il nostro Garulf. Salve. Ciao a tutti, mi sentite? Sì, che ti sentiamo. Forte e chiaro. Dove sei, Garulf? Allora, siamo qua all'Assalto. C'è questo super dibattito su Facebook, censura, noi che siamo tutti contro il controllo e il tecnocontrollo. Interessantissimo. Perché non venite tutti quanti? Scusa, dove che siete? Che fate? Stiamo facendo una trasmissione. Mi sembra una domanda di merda. Scusami, Garuf, tu sei molto simpatico, però in realtà ogni tanto hai delle defiance. Sì, è vero. In realtà lui voleva invitare tutti i nostri radioascoltatori, anche web ascoltatori nella provincia di Cosenza e dintorni, magari uno più lontano può venire il curito di scendere, non penso. Però chi non si trova... parlerò di nessun piatto vegan. Allora, abbiamo detto che chi si trova a Cosenza e dintorni può andare all'LSA Assalto all'Università della Calabria Cubo Sergi, Garulf? Sì? No. Aula 4041 del polifunzionale, all'area del polifunzionale. Ok, aula 4041 del polifunzionale, dove ci saranno questi seminari. Sì, seminari dibattiti. Bravo, dillo tu. Seminari dibattiti, poi ci sarà anche una proiezione che vi inviterà a venire all'Hack Meeting di cui state parlando, mi sa, vero? Sì. Anche se non siamo noi la parte nerd, se è un po' scappata, mi raccomando. E soprattutto dopo ci sarà la pericena. Apericena? A seguire, pericena? Definisci la pericena. La pericena è una cena che è un po' aperitivo, è un po' cena, e non si sapeva cosa fare, e quindi abbiamo detto apericena. Come siete avanti. Figo, con siete avantissimo. No? E niente, dopo, soprattutto dopo ci sarà festa di Dieset e quindi... Quindi insomma una bella situazione. Una bella situazione, sì. È un luogo adatto per ribadire che quando una cosa è libera, è libera. Senti, certo, ma per quanto riguarda la cena... Ci saranno cose, persone che faranno cose strane con l'elettricità. Ci saranno artisti robotici provenienti da bellissimo. Un passato, un futuro lontano, non vogliamo dire noi. Ma soprattutto ci sarà Emiliano. Che sarà Emiliano è il dio che soffierà a vita in questo braccio robotico che disegnerà i vostri ritratti. Bene, a pochi euro, e soprattutto ricordiamo che tutto il ricavato verrà devoluto a Autistic Inventory. Che cos'è? L'abbiamo parlato 200.000 volte. 200.000 volte, il network di server autogestiti che ci permette di avere una comunicazione libera in questa rete che è sempre più chiusa da queste multinazionali come Google, Facebook, eccetera. Eh sì, tra l'altro se uno viene là può anche sentire cose che magari non si sanno, come appunto è passato il mailing list del Ciotoflow, quel fatto di Indie Media Piemonte che è stato oscurato. Esatto. Perché esatto. Se ne sta parlando proprio adesso là nell'aula seminario dibattito. Bene, quindi se siete curiosi di sapere che cosa succede intorno a voi, se siete curiosi di avere un'anteprima su Hack Meeting all'Aquila, se siete curiosi in generale di cosa avrà cucinato Garulf per voi, potete solo andare a una festa o volete andare a una festa sostanzialmente per fare quello che volete fare, potete raggiungere i nostri nerd lì. Ono Sendai c'è, sta parlando? Sì, è là in mezzo a questa discussione che comunque è molto interessante tra l'altro. Ah, va bene. Allora, invitiamo tutti quelli che sono in ascolto da raggiungere Garuf e gli altri alla Polifunzionale all'Università della Calabria per questi seminari pro Hack Meeting e pro Autistici Inventati. E sì. Dedichiamo a tutti voi questo pezzo scelto dal nostro Andrea Blues. Lui è Louisiana Red, Sweet Blood Cow. L'ho detto bene? No, ho detto male. Benissimo, benissimo. Ciao. Ciao Garuf. Ciao. I have a hard time missing you, baby. With my pistol in your mouth. Have a hard time missing you, baby. With my pistol in your mouth. You may be thinking about going off, but your brains are staying south. Just roll your pretty eyes if you intend to stay. Roll your pretty eyes if you intend to stay. Close them up again and I'll blow your world away. But see your eyes are rolling. Must mean your love for me's come back. Must mean you're satisfied again with our little wooden country shack. I have a hard time missing you, baby, with my pistol in your mouth. You may be thinking about going north, woman, but your brain are staying south. Even if you sneak away, I'd find you before nightfall. You're tied to me, girl. I can feel your sweet blood call. Even if you sneak away, I'd find you before nightfall. Cause you're tied to me, girl. I can feel your sweet blood call. bentornati qui in diretta, ci sono i Mozilla Bros con il vostro blues, il vostro swing, il vostro soul, il vostro funky e angle. Non ci facciamo mancare nulla. Mi è colto con un grandissimo sfondo Natale, veramente. Conosciuto, l'abbiamo passato un sacco di volte, lui è Little Richard. Prima abbiamo ascoltato Little Walter. Lui è l'armonicista di Muddy Waters. Ah. E prima abbiamo sentito l'armonica in quel pezzo che abbiamo brutalmente interrotto, dobbiamo dire, ma tutto per colpa di Garulf. Ma ci stava, Garulf può questo e altro. E il pezzo che abbiamo ascoltato poc'anzi, invece, era Louisiana Red, che è uno delle icone del blues, che deriva direttamente dal blues di Chicago, possiamo dire, quel genere, la progressione dal Delta, e come si può facilmente vincere dal nome, lui è della Louisiana, quindi un purista del genere, proprio per origine. E abbiamo sentito Kid Blues, vuoi commentare Natale? A Milano c'era questo blues, no, oppure c'era questo blues. Ti siamo mancati un po'? Vi siete mancati molto perché non c'era questa atmosfera blues. Però c'erano dei tipi pazzi a Cimiano, la zona dove stavo. Loro sono i ragazzi dell'Igera, che saluto. Sono dei pazzi, appena hanno sentito che ero di Cosenza, in quanto nella loro testa amico di padre e fedele, mi hanno offerto tutto quanto. Sono stato accolto con un'ovazione. Sono molto simpatici, li salutiamo. Gli ho detto di sentirsi la trasmissione, non se la sentiranno mai. Però è andato sul nostro sito e sono proprio toghi, sinceramente. Non ricordo come si chiama lui, però guarda, se capitate a Milano, in zona Cimiano, c'è questo pub con sfondi anni 70 polizieschi, si chiama Ligera, in nome della malavita milanese anni 60, appunto la Ligera, la leggera, quella senza troppi boss, diciamo, boss particolari. E, insomma, è caratteristico, ambientato con sfondi polizieschi. Si può suonare, si può bere qualcosa, si può stare insieme e divertirsi. E soprattutto parlare di padre fedele, perché loro sono dei fan sfegatati, a quanto pare. È uno dei tanti personaggi di cui Cosenza si può vantare, sì, no? Tra l'altro sono anche dei ciromisti, perché si conoscono Radio Ciroma. E quindi sono proprio toghi. A questo punto il saluto se lo sono proprio meritati, guarda. Angle. Senti, Uncle, io ho una canzone per te. Secondo me questa canzone ti si addice. Senti un po'. Vediamo. Vivo felice, senza pensieri. Sono padrone del mondo intero. È tutta rosa la vita per me. Vivo tranquillo e beato, e il motivo sapete qual è? Io sono tutto scemo, son pazzo da regar. Io sono tutto scemo, ma che ci posso fare? Un dono di natura, beh che c'è? Son felice, sai perché? Trionfano soltanto gli svitati come me. In realtà non era questa, Angolo. Quella canzone che ti volevo dedicare era... Questa era simpatica, però. Ma questo è col gruppo Trash. Questo è quel rock demenziale anni 60 che abbiamo passato. Lui dovrebbe essere... Lui, no, loro sono i Clowns, fanno parte della raccolta Mondo Isterico del rock demenziale anni 60 che abbiamo passato più volte, sì, infatti. Però tu non l'avevi sentita, quindi te lo volevo fare sentire questo pezzo. È stata una gioia, guarda. È stata una giobba, perché il vero pezzo sì. È questo. Little Richard, che hai citato prima, Lucille. Please come back where you belong. All right. Thank you. morning, Lucille was not in sight. I asked my friends about her, but all they did was talk. Lucille, please come back where you belong. I beg her to you, baby. Not in sight. I asked my friends about her, but all they did was talk. Lucy, please come back while you belong. I beg her to you, baby. Please don't leave me alone. Lucy, baby, satisfy my heart. Lucy, baby, satisfy my heart. Ladies and gentlemen, qui sui microfoni di Radio Cirome è arrivato special guest, il cantante. È il momento che tutti stavate aspettando, tutti quanti aspettano le 8 meno 5 per la voce calda e bassa. Suadente pure. Grave. Molto grave. Un tono basso. Però è sempre sorridente il cantante. Lo salutiamo, Andrea, il cantante è venuto a trovarci per farci un altro dei suoi pezzacci, ma tra l'altro questa nuova verve poetica, come la vedi, come la interpreti? Ma devi sapere che è nata tutta qui, è nata qui a Cirome ovviamente. Quindi è stato ispirato alla cultura il cantante. È ispirato forse dal nostro pressing a fargli emergere tutto questo blues allucinante che si porta dentro, un blues veramente fenomenale, che riesce ad esplicare alla grande anche in versi. E non è una cosa da poco, non è una cosa da sottovalutare. Ci ha regalato momenti veramente di catarsi. E speriamo che stasera ci regali pure qualche perla delle sue. Eh sì, perché siamo in chiusura, è come non chiudere con il cantante. Dulcis in fundo, vieni qua cantante. Allora, oggi che ci canti? Buonasera, vi canto una canzone di un gruppo storico, gli Eagles, California. Sentite questa canzone. Aspetta, aspetta Andrea. Vai. In California, to the lost, I will see the California. Well lost. I love the love in the dark, California. Well lost. I will see California. Well lost. I love California. Well lost. Una canzone in italiano ve la posso cantare? Tutto chi lo cavò. Cosa mi manca? Queste sono di Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri e l'altro chi è? Tre erano. Ricominciamo, Umberto Tozzi. Enrico Ruggeri. E l'altro. Un terzo chi è? Forse lo sa il nostro Natale. E Raff. O no? Mi pare che era Raff. Chi era un terzo? Canto lo stesso, vabbè, non va niente. Cosa mi manca, cosa non hai, chiede dei marinai, con questa barca di venerdì, esce cosa di guai, si può dare di più, senza essere eroi, si può dare di più, senza essere eroi, come fare lo sai, non lo sai neanche tu, all'incerco si può dare di più. Per questa barca sulle nostre dine 90 minuti per l'eternità. Poi c'è, aspetta, continuava ancora. E la carestia e se ne ne l'ultima in gita, cos'è la barca? Hotel California e comincia adesso. Buonasera, bella base di California. La la la la la, I was there, I love a lover, the love of life. I was there, California, you're the love of life, you're the love of life, you're the love of life. Dopo averlo stoppiata, cari amici, dopo aver stoppiato Hotel California, vi lasciamo con questo puntatone dei Mozilla Bros con l'originale Hotel California. Scusateci Eagles, scusateci tutti voi amanti di questa bellissima canzone, ma il cantante ha fatto una grande reinterpretazione, secondo me è stata degna di nota. Salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, salutiamo tutti gli hackers in ascolto che vanno all'Hack Meeting 29 giugno prossimo. Salutiamo il cantante che ci ha fatto di nuovo questa grande performance. I nostri bluesman che l'hanno fatto più di gaggio, ma un abbraccio lo stesso. E soprattutto un augurio a Rossella, che oggi fa il compleanno. Auguri, che è il compleanno. Un abbraccio. E salutiamo soprattutto il cantante. Ciao. Buona serata. champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Ci siamo dimenticati un saluto da una nostra ascoltatrice un po' lontana, da Milano, e quindi un salutone a Silvia, un abbraccio e Blues On. Son Cusenza, ovviamente. Identifichiamo non da Milano ma da Londra, noi ci aggiorniamo in tempo reale. E il nostro saluto arriva anche lì, a Londra, e quindi un saluto salutiamo londinese. Salutiamo anche Matteo, ci ascolta da Milano, e anche Danabel ci ascolta da Milano. Ciao! Stiamo riprendendo la trasmissione, un attimo di pazienza.